sono di malattia di raffreddamento, capito? Quello lo fa sempre. Si tratta di come lo senti. Lo senti, ci sono le cani in calosa sotto il lato. Ah, per quello, e già lo sentivo, sì, infatti, sotto a fondo. Ho detto, poverino, magari vuole uscire, capito? E invece a chi sente qualche cagnolina? Guarda, non fa portarlo giù perché ti tira, ti fa correre come... Ho presente le cubiche, la stessa cosa. Ti fa parte all'altro per rovinare l'erba. Insomma, Batario Zue è anche perché è bello robusto il cane, quindi già lo credo che tira. Se mi ha rotto il moschettone d'acciaio, per andare a passare un cane, mi ha rotto il moschettone, ce l'ho fatta per la maniglia, se non mi saltava addosso. Ma raccontano nessuno, è questo cane che lo stava per aggredire, allora lui si è girato. Ho capito, sì. Perché si deteriorano molte volte quei moschettoni e cedono di colpo. Io adesso lo calmo, poverino, è venuto qua da noi, perché stava gridando che voleva andare giù a tutti i costi, ma a parte che se vai giù ti dicono subito, no, ma lontani che sono in calore, capito? E allora lui evidentemente ha sentito l'odore di qualche cagnolina che è così ed è super eccitato. E allora, ma è tutto chiuso qua, perché io ho aperto il finestra la mattina, poi la sera le chiudo solo se la fredda la casa. E quindi è tutto chiuso, non è che si è aperto, come fa a sentire l'odore? Ne lo senti lui già, che neanche noi lo immaginiamo, capito? Sicuramente è quello, capito? Ma quanti anni ha il tuo cane, Gianni? Deve compiere 8 il 16 di marzo. E quindi non l'avevi mai fatto sterilizzare, capito? No, io ho fatto solo una sterilizzazione chimica, perché c'era praticamente una ciste che faceva prendere sangue dal membro. E ho fatto questa sterilizzazione chimica che poi durava una settimana per farmi passare il resto, ma niente. Aspetta che adesso lo chiudo qua così non grida, aspetta. Anintenni, Natalì, il cane di Gianni. Poverino, già lo sento. E anche se chiude la casa, vede se lo sente l'odore delle cagne in calore lui. Oggi ho pranzato da Recata, ma ha fatto questo pranzo la 50. Carlo, non te ne dico nulla. Roba buona, Natalì, dimmelo che copio la ricetta così. Bravo di mammo. Ah, minestra. Gianni, ridendo, chi lo sa già, l'ho fatto anche a lui. Oiaia. Niente, io soli soletti con mio figlio, mia moglie rientra stasera con l'ultimo volo di Roma, capito? Hai visto quelle foto che ti avevo mandato, era tutto vuoto, poi si è riempito tutto di profughi, di rifugiati politici, capito? Ci sono tutti quelli che hanno gli occhi tipo a mandorla, che sono di etnia Zara e sono afghani però, no? E i talebani li uccidono perché dicono che sono una razza inferiore. E quindi questi poveracci scappano dove gli viene bene, quindi l'Europa divide le quote, un po' se li prende la Germania, un po' la Francia, un po' l'Italia, e la Polonia ne ha preso, insomma, un po' tutti ne prendono. E ne sono arrivati in tutto 120, ma famiglie con bambini anche. Addirittura è arrivato anche il bambino che si aveva messo la busta con la scritta Messi e poi qualcuno l'aveva messo sui social, Messi l'ha visto e gli aveva regalato la maglietta originale. Adesso questo bambino con la famiglia è riuscito a venire con questo gruppo qua. Dopo ti mando la foto, adesso è cresciuto, prima era piccolino, però ancora avrà un 13 anni. Povera gente, cazzo, a me guarda. Chissà tutto quello che avranno passato questa gente qui. Purtroppo nel mondo ce ne sono che sono fortunati come noi, che male non ce la passiamo, noi ci lamentiamo di tante cose, ma credimi che c'è gente che se la passa veramente male. noi è che ci lamentiamo troppo, però purtroppo è così, dai, è importante andare avanti e guardare sempre in maniera positiva il futuro. Se ci riusciamo ad andare avanti. Già lo credo Gianni. Con quello che ha combinato mi sa, ma dai. La Miruni, oh via, adesso sì, adesso con lui si gira contro di lui. Non ci fa niente a noi la Meloni, no. Gente che ha paura per il 110%, eccetera. No, chi ha già avviato tutte le pratiche, quelli verranno portati a conclusione, ma l'hanno specificato bene. Certamente che questi 2 o 3 anni di super bonus al 110 a tutti gli italiani è costato 2.000 euro come debito, capito? Perché l'Italia ha un debito, capito, nei confronti di tanti altri paesi, dal dopoguerra, capito, è iniziato il debito che gli italiani hanno. E questo debito, anziché andare e diminuire, tutti gli anni aumenta, capito? Perché il governo fa le finanziarie. Le finanziarie le fa per cercare di gestire le spese del paese, ma se non fa utili questo debito non si abbassa mai, si aumenta sempre. E praticamente questo 110 ha fatto sì che pro capite a ogni italiano, capito, gli verrà caricato 2.000 euro di debito pubblico, e il debito pubblico più alto in Europa ce l'ha l'Italia, proprio perché si indebita facendo queste cose folli, capito? Perché il 110 secondo me non l'avrebbero mai dovuto fare, avrebbero dovuto fare solo il bonus facciate e basta, magari lo mettete all'80% e poi da diciamo scalare con la dichiarazione dei redditi in 10 anni come si faceva prima, capito? Perché sì, è vero che hanno dato lavoro, imprese, operai, tutto l'indotto ha lavorato, però se tutto questo lavoro poi viene a carico di tutti noi, di tutta la collettività, allora non era una buona cosa, quindi hanno fatto bene a bloccarlo, capito? E garantiscono solo i lavori già avviati, punto e basta, e poi incrociamo le dita e speriamo bene. E adesso di nuovo le imprese che si erano diciamo illuse di aver trovato un attimo di respiro, cadranno di nuovo tutte quante, licenzieranno gente eccetera, ma non è tanto quello, è il fatto che è andata a garantire dei rischi che vediamo le armature eccetera eccetera, è quello che pure la Russia, capito? E tanto quelle sono decisioni che si prendono tutti quanti insieme, l'Europa, cioè l'Italia da sola non è che può decidere, ognuno sta dando all'Ucraina qualcosa di armamenti e anche l'Italia doveva dare qualcosa, capito? Perché noi abbiamo solo dato ambulanze, abbiamo dato lanciamissili, però quelli chiedono di più. Se un giorno poi dovesse finire la guerra, ci sarà tutta la ricostruzione e quindi l'Ucraina, che è un paese molto ricco di risorse anche naturali, ovviamente si sarà indebitata con questi paesi, no, che hanno partecipato a dare gli armamenti, e quindi anche loro faranno il debito pubblico come l'ha fatto l'Italia nel dopoguerra, capite? Noi ancora ce lo stiamo trascinando dietro il debito pubblico. C'è molta gente che dice andare alle armi sì, per il 110% no, per il reddito di cittadinanza no, prima bisogna pensare alla gente che ha bisogno, capito? E quello non erano tutti curti, perché ci sono persone che effettivamente hanno bisogno. Allora, se ci sia un reddito di cittadinanza, quello va bene, anch'io sono d'accordo, purché venga dato a chi veramente ne ha bisogno, però non funziona niente, non funzionano gli uffici di collocamento, non funziona niente, per cui uno prende il debito di cittadinanza e con quello se ne rimane, non cerca lavoro perché non ce n'è, gli uffici di collocamento non funzionano, quindi l'Italia deve vedere molte cose, cioè tu non puoi tenere in piedi una struttura come l'ufficio per il lavoro che non crea lavoro, non serve a niente e tu stai pagando stipendi statali agli impiegati che non fanno niente, quegli impiegati li prendi e li fai andare in altri uffici dello Stato, capite? Quegli uffici li chiudi il lavoro fa in modo che si trovi in maniera diversa, perché tanto tu ti iscrivi all'ufficio del collocamento e non ottieni niente, Gianni. Io ho fatto iscrivere a Marco l'altro giorno all'ufficio del collocamento e niente, e gli ha detto che stanno cercando gente che sappia usare il computer, che sappia molto di informatica, e Marco ha detto se non vai tu ti chiamano loro, basta che tu ti iscrivi, ti chiamano e quando servi ti chiamano loro, sono delle agenzie, qualcosa del genere. Adesso vediamo, qualche cosa dovrà fare, no? Ma credo che proprio non riescano comunque a trovare, a soddisfare le richieste di lavoro loro come ufficio. Io mi ricordo anche da ragazzo che mi ero iscritto quando avevo finito di studiare, mi ero diplomato, mai ho trovato un lavoro tramite ufficio di collocamento. Mi ero iscritto e non mi hanno mai chiamato. Le chiamate al lavoro che ho fatto sono sempre state tramite il tandam, conosci quello, conosci quell'altro, digli se mi prende, capito? E poi ti facevano le assunzioni così. Però l'ufficio di collocamento poi serviva solamente che quando finivi un rapporto di lavoro magari andavi e facevi la procedura con la disoccupazione, ti segnavano come disoccupato, presentavi all'INPS il libretto del lavoro e ti davano la disoccupazione speciale, capito? Solo per quello. Però poi effettivamente il lavoro non ne ha creato mai, né prima e non credo che ne creerà adesso quell'ufficio lì. È pieno di gente lì che prende lo stipendio e poi non serve a niente. L'altro giorno quando sono andato ero seduto mentre Marco stava parlando con l'impiegato, perché si è cambiato tutto, ci sono proprio le postazioni di un impiegato, allora così prima c'era manco di lungo e si avvicinavano tipo le poste là. E niente, io mi sono fermato lì, si è avvicinata questa ragazza, mi ha detto, mi dica cosa deve fare lì. Ho detto, guardi, io sto cercando un posto di lavoro perché sono pensionato e sto cercando un posto di lavoro. Un'idea ce l'ho lì, quindi dovete alzare ogni volta la postazione per chiamare a chi spetta. Io farei entrare a uno le persone che man mano che le spetta e faccio tipo uscire. Se non mi volete, questa cosa si è messa a ridere, poi ho detto al collega, guarda c'è qualcuno che ci vuole, questo signore ci vuole aiutare. Ben venga, lo prendiamo subito. In su base volontaria poi, no? Il lavoro ce n'è poco e niente, capito? E quindi la situazione è questa, la speranza è che finisca questo conflitto che sta bloccando tutte le economie mondiali. Se finisce la guerra, diciamo, forse ci sarà una ripresa economica per tutti e magari anche la gente inizierà a avere un pochettino più di fiducia, inizierà a spendere di più, magari a riqualificarsi la casa senza stare con il super bonus 110, tanto soldi novinne, è inutile che dicano, che illudano la gente, anzi è una grazia chi è riuscito a farlo, tipo noi che lo stiamo facendo. Però c'è anche da dire una cosa, una volta finito tutti i lavori, praticamente l'abitazione va di nuovo riqualificata, perché nel certificato catastale prima avevi categoria A5, adesso ti cambiano la categoria perché praticamente sali di due o di tre categorie in base ai lavori che hai fatto, capito? E quindi anche la rendita catastale viene aumentata e quindi tu paghi più tasse, hai capito? Come se li rifà poi lo Stato i soldi da tutti quelli che hanno fatto il 110, aumentando la rendita catastale perché magari diventa di categoria energetica più elevata. Quante immagini, li danno da una parte e li prendono dall'altra, l'hanno sempre fatto così, capito? L'hanno sempre fatto così. E vabbè, cosa vuoi fare? Purtroppo noi siamo solo vittime, non possiamo fare nulla. E cosa facciamo? Loro decidono e noi dobbiamo fare. Addirittura nel palazzo vicino a me l'avrebbero dovuto fare, le hanno bloccato i lavori, non hanno fatto nulla. dovevano portare tutta l'attrezzatura, non hanno portato, tutto sono stati bloccati perché non li hanno pagati, quindi non ci sono andati. E allora gli facciamo questo, mettiamo i pannelli solari, tanto se dobbiamo mettere qualcosa in più la mettiamo, mettiamo anche i pannelli solari, visto che c'è questa possibilità, invece non gli hanno fatto nulla, non gli hanno fatto nulla manco qua. E vabbè. E così purtroppo. Natalia, avanti. Cosa vuoi che ti dica? C'era la 50 e mi stava dicendo cose. E già l'abbiamo sentita. Ciao Concetta, buonasera. E adesso non ti ha sentito che è andata in cucina. L'ho sentito la voce, si sentiva sottofondo, quel microfono è un amplificato, è Caldaruso. Anzi, questo qui è di Russo, ma no, sono Sonelli, ciao Savone, mamma mia. Oh già, e che radio stai usando tu adesso? Adesso sono con Cobra. E microfono cosa hai? È quello che, aspetta, si chiama... Mi devo mettere gli occhiali, non lo ricordo come si chiama. Non è l'MBT4 quello che hai preso da me? No. Vabbè, non ti preoccupare, no, perché la tua voce è leggermente un po' compressa, capito? È per quello che te l'ho chiesto, cosa stavi usando, che radio e che microfono. Perché magari la radio già va bene e forse il microfono non è troppo... performante, diciamo, e io ero abituato a sentire proprio la tua voce chiara, capito? Questo è un po' compressa, mi sembra. Questo è il KPO da Palmo, KPO si chiama, non me lo ricordavo perché è un microfono nuovo e adesso ho abbassato anche il volume, guarda se va bene. Sì, in effetti adesso è più chiaro, sì, ma è preamplificato anche questo. Perché non si sente? Sì, forse era troppo preamplificato, pensavo non lo fosse. Se magari abbassa ancora un altro pochettino e vediamo come va. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. E adesso va meglio, perché diciamo in linea d'aria noi siamo anche abbastanza vicino. Il segnale tuo mi arriva a fondo scala e la radio lo stesso è Super 5, però aveva questa specie di compressione proprio la voce. Adesso che l'hai abbassato però è andato via e va meglio. Questo qui è un microfono che amplifica un bene, mi sono ascoltato in cuffia e va molto bene con il microfono. Devi parlare lontano perché se parli vicino, guarda, ti provoca quello che hai detto tu. Ah, ecco, infatti adesso come ti sei avvicinato, sì, allora è quello. Se parli da lontano va molto meglio comunque. E adesso sto parlando quasi un braccio, qua va bene. A voglia, così è più chiara la voce. Sì, questo che mi aveva fatto prendere Marco Condor, l'avevo sentito, mi era piaciuto e me lo sono preso. Questo è un microfono nuovo che davano delle buone recensioni, invece in poco tempo mi ha dato problemi al PTT. Usciva o non usciva, Marco gli ha fatto la stessa cosa, comprato da poco e gli ha fatto la stessa cosa, mi ha preso le tendine. E poi l'hai messo a posto il PTT? Sì, l'ho sentito il cane. Sì, l'abbiamo messo a posto tutti e due, gli ho detto di spruzzare un po' d'aria e un po' di spray per contatti. Io ho provato nel PTT e non era quello, era il cursore del volume. Infatti me lo faccio alzare e abbassare, muovendolo sicuramente o c'era polvere o roba del genere, non mi faceva più uscire di radio. Ho capito. Sì, no, io ormai mi sono abituato con quelli da Palmo e potrei usarlo anche uno, diciamo, di quelli da tavolo, qua c'ho il mobile in cucina, posso metterlo, però ormai io sono abituato con quelli, diciamo, classici palmari e non mi trovo con quelli da tavolo. Idem, a me mi piacciono più quelli palmari, anche perché io quando modulo sono sdraiato, mi rilasso, mi metto la coperta sopra per il freddo e parlo così, capito? Quindi devo avere un microfono che possa allungare il filo, invece quelli da tavolo devo allungare il braccio, devo mi posso avvicinare anche il mobile perché c'ha le ruote, capito? Quindi lo posso avvicinare al letto e tutto. Però è più comodo questo, dai. Esatto, io anche per quel motivo, io già lo sai, la radio ce l'ho in cucina e ho il filo del microfono lungo, quindi arrivo sino al lavandino, continuando a fare, a muovere, se devo andare in frigorifero a prendere una bottiglia d'acqua fresca, arrivo al frigorifero, capito? Ed è più pratico, poi lo mollo dove mi capita, magari vicino alla fruttiera, lo lascio lì e magari io sto cucinando e riesco magari a girare una cosa in pentola, capito? E con l'altra mano magari ho il microfono, invece con quelli da tavolo sei costretto proprio. Ecco, se hai una postazione dedicata dove è la tua scrivania, allora ti siedi e forse quello da tavolo ha più senso usarlo. Così come sono io, diciamo, è più pratico il classico microfono palmare. Io, Carlo, ne ho uno di microfono sul Royce, che tu secondo me non hai mai visto i fili così lunghi per il microfono. Sarà almeno 1,5 metri, 2 metri. Io c'ho una prolunga, capito? Ho la prolunga e arrivo, sì, da qua al lavandino saranno 3 metri effettivamente, perché di quelli spiralati, capito? Però la prolunga è anche molto, si estende molto, è morbido la spirale, capito? Non è di quelle rigide, per cui arrivi sino alla porta finestra in fondo alla stanza. Vabbè, ti viene appresso, dai, ho capito. Sì, io guarda, ho opzionato, volevo prendere un cavo a 5 cavi, un cavo spiralato a 5 per fare un attacco, perché l'ho cambiato in un microfono che era tutto quanto sgretolato, il cavo, e lo volevo mettere normale e non ce n'era da fusare. Ho detto, ci abbiamo questo a 5, però è di quelli lunghi. Dammi quello lì. Quello è messo, però non pensavo mai che fosse così lungo. Quando l'ho aperto mi sono cassuzzato. ho capito. Niente, che ora abbiamo fatto? 18:33, tra un quarto d'ora c'è la partita Nantes-Juventus di Europa League e mi guardo la partita, quindi faccio l'ultimo passaggio e ne approfitto che vi saluto, poi se coincide ci sentiamo o più tardi o dopo cena o se no a domani, Gianni, e devo concludere anche due cosette qua a casa e se ci riesco prima che inizi la partita da rimettere a posto alcune cose, dai. Ce la risentiamo alle prossime. Ciao Natalino, ciao Gianni e ciao a tutti quelli che sono in ascolto. Ciao Carlo, dai, buon divertimento per la partita. Ci sentiamo, dai, buona tecnica quando la fai. Io avevo intenzione di attaccare l'altra in macchina, ma non ne attacco nemmeno quando vado là. Non mancheranno le occasioni, già. Va bene, ciao Natalì di nuovo, ciao Gianni, a più tardi se coincide, dai. Ciao Carlo, stammi bene, dai, ci sentiamo. Avanti, Natalino. Natalì! Attenzione, Natalino, mi ascolti? C'è qualcuno qua? Avanti. Chi è avanti, mettete la portante e non parlate, va bene, ciao a tutti. Ciao Natali, prima io avevo salutato, c'era Gianni che ti chiamava e magari però eri andato a rispondere a qualcuno. Sto andando a vedermi la partita che c'è Nantes-Juventus. proposito di francesi, e quindi niente, mi avevo lasciato acceso, e forse è già riuscito a portare il cane allora. Sì, ho sentito anche io la portante, però non so chi fosse. Ce la risentiamo, Natalie, se coincide a più tardi. E ciao Carlo, va. Tanto adesso mi preparo qualcosa da mangiare e ti raccampa. Tanto stasera siamo entrati solo noi e non è entrato altro nessuno. Ci sentiamo alle prossime, dai, buona partita. Eia, ciao Natalie. Poi non lo so se ne voglia dopo cenare a tacco, se becco qualcuno più tardi. Bene Meda, ciao Natalie, a più tardi se coincide, se no alle prossime. Ciao.